65. Zuppa col brodo di muggine. Uno dei pesci che meglio si presta per ottenere un buon brodo è il muggine, che nell'Adriatico comincia ad essere bello e grasso nell'agosto e raggiunge colà il peso di oltre 2 chilogrammi. In mancanza di questo può servire l'ombrina, il ragno e il rospo, le cui carni, se non daranno il brodo saporito del muggine, saranno in compenso di qualità più fine e più digeribile. Se trattasi di una zuppa per 7 o 8 persone, prendete un muggine, ossia una baldigara, come chiamasi in alcuni paesi di mare, del peso di 1 chilogrammo almeno. Raschiategli via le squame, vuotatelo e lessatelo con acqua in proporzione. Fate un battuto alquanto generoso con cipolla, aglio, prezzemolo, carota, sedano e mettetelo al fuoco con olio, sale e pepe. Quando avrà preso colore, fermatelo con sugo di pomodoro e fatelo bollire col brodo del pesce. Poi questo brodo colatelo e con un poco del medesimo cuocete una piccola quantità di sedano, carota e funghi secchi che servono per dare odore, il tutto tagliato a pezzetti. Il pane per la zuppa arrostitelo e tagliatelo a dadi, poi mettetelo nella zuppiera e versateci sopra il brodo bollente insieme coi detti odori, servendola in tavola con parmigiano a parte. La famiglia delle muginidee allo stomaco ha forti pareti muscolari, a somiglianza del ventriglio degli uccelli, e il rospo di mare, Lophus pescatorius, della famiglia delle lofidee, con una pinna inargentata e movibile del capo, attira i piccoli pesci per divorarli. Chiamasi in alcuni luoghi volgarmente grattale ed è anch'esso in pregio bel brodo da bagnare la zuppa.